è tutto un complesso di cose che fa sì che io non resti qui. Vogliamo il pane, vogliamo le rose per non andar via, via da qui. Settembre sporco traditore quale sei, per ben due volte mi hai fermato, circondato, pugnalato alle spalle come sei. Come se niente fosse, ti sei ricordata di me che avevo il vomito e la tosse. Ci eravamo persi di vista, ci eravamo persi di vista. Ma avrei un'osservazione di lei, sulla mia pausa o riflessione, sulla motivazione per la quale anche i nottamburi non vanno a colazione. Potrei mai essere sereno, di lei, se ti nascondi dietro un vetro, tra ciò che conserviamo e ciò che ci lasciamo indietro. Ho visto un uomo, aveva la mia età, prendere un treno in partenza, lasciare a casa le possibilità, può farne a meno anche se, anche senza. Ma quando meno te lo aspetti arriva lei, indossa un abito vistoso, ti costringe a contemplarlo con lo sguardo silenzioso com'è. Come se niente fosse, ti sei presa cura di me che ero sconfitto e con la tosse. Ci eravamo persi di vista, ci eravamo persi di vista, ma stanotte, stanotte ti ho sognata, Lady Lei, mi hai spalancato il cuore, in una mano avevi l'inchiostro, nell'altra il mio nome. Nel sogno mi dicevi, Lady Lei, dovresti fare più attenzione, sognare non significa pescare delle rane, ma balene in estinzione.